24, i gialli della storia. Siamo qui riuniti per incoronare Elisabetta, regina del popolo inglese. Dio salvi la regina. Durante la mia incoronazione chiederò a tutti voi, qualunque sia il vostro credo, di pregare affinché il Signore mi doni la saggezza e la forza per portare a termine le solenni promesse di cui mi farò carico e affinché io possa servire fedelmente Lui e voi ogni giorno della mia vita. L'incoronazione di Elisabetta II il 2 giugno del 53 sarà un avvenimento di portata mondiale, anche grazie alla diretta televisiva che l'ha portata in tutti i continenti. Gli occhi del mondo erano puntati su Londra per un evento memorabile che segnerà la fine delle ristrettezze dovute alla guerra e rilancerà l'Inghilterra nel panorama internazionale anche dal punto di vista economico. Oggi Elisabetta compie 90 anni e il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, oltre a figurare al 44esimo posto nei regni più longevi della storia. 125 milioni di persone sono i suoi sudditi e il suo regno ha visto 12 primi ministri, numerosissimi governatori degli stati membri del Commonwealth. Oggi a Mix24 racconteremo quel momento e le fasi che lo hanno preceduto dopo la morte di Re Giorgio VI, trasformando una giovane ragazza di 25 anni con due figli piccoli e un marito, Filippo di Edimburgo, sposato nel 47 e con cui viveva una tranquilla vita fuori dalla corte, nella regina d'Inghilterra. In questo racconto ci accompagneranno le testimonianze di Pamela Hicks, cugina della regina, e del giornalista Robert Hartman, Andrew Roberts e Bill Deeds, ex direttore del Daily Telegraph. Tutto a un tratto arrivò una telefonata. Alle 9:15 del mattino. Era una telefonata in codice, come spesso avveniva, e il messaggio era il seguente: Hyde Park Corner, riferire al primo ministro e alla regina. Hyde Park Corner in codice significa Re Giorgio VI è morto, il primo ministro in carica è Winston Churchill. In pochi minuti raggiunsi con la mia vecchia auto sgangherata Downing Street, suonai il campanello e dissi che avevo un messaggio personale per il primo ministro. Il maggiordomo mi condusse nella sua stanza. Churchill era ancora a letto, intento a preparare un discorso per la Camera dei Comuni. Io gli dissi: signor primo ministro, temo di avere cattive notizie da darle. Il re è morto. Cattive, disse. Catastrofiche. Solo una settimana prima, il re ha presenziato la partenza della figlia e del genero per il lungo tour del Commonwealth. Elisabetta e suo marito Filippo sono stati chiamati a fare le veci del re, impossibilitato a viaggiare per via della sua malattia. La prima visita ufficiale in Kenya si svolse a Nairobi, dove avremmo presenziato a tutta una serie di cerimonie in onore della principessa. Ma l'aspetto più divertente del nostro soggiorno fu la permanenza al Tree Tops, una minuscola casetta in legno di 3 stanze, pomposamente definita albergo, e costruita in cima a un enorme albero di fico nel cuore della foresta, di fronte a un lago salato da cui avremmo assistito alla partita di caccia. Purtroppo, però, salì su quell'albero con il titolo di principessa e ne discese il giorno dopo in veste di regina. Secondo la struttura della nostra Costituzione, nel momento in cui il monarca esala l'ultimo respiro e il suo cuore cessa di battere, il primogenito, ovvero il primo nato, che si tratti di un maschio o di una femmina, prende subito il suo posto immediatamente. In Inghilterra, la notizia viene comunicata alla nazione. Vi parla il corrispondente da Londra. È con immenso dolore che vi comunichiamo il seguente annuncio. Oggi, 6 febbraio 1952, alle 10:45 del mattino, dalla residenza di Sandringham è giunta notizia che il re, le cui condizioni erano ieri stazionarie, è spirato in pace nel sonno nelle prime ore del mattino. Nel frattempo, in Kenya, Elisabetta si è trasferita a Sagana Lodge, ma i funzionari non hanno ancora riferito alla principessa la notizia della morte del padre. Elisabetta non immagina nemmeno di essere diventata regina. Quando la notizia della morte giunge a Sagana Lodge, il principe Filippo sarà il primo ad esserne informato. L'incombenza spetta allo scudiero Mike Parker, come ricorda la sua ex moglie, Aileen. Mike glielo disse non appena tornò a casa e subito dopo commentò: poveretto, sembra che gli sia crollato il mondo addosso. Spetta a lui la parte più difficile. Li vedemmo camminare su e giù inquieti. Chiaramente glielo stava dicendo. Poi Elisabetta rientrò in casa e la sua reazione fu davvero atipica. Non si scompose minimamente e disse solo: mi dispiace tanto, ma dobbiamo tornare subito in Inghilterra. La nuova regina è accolta in patria dalle autorità. Guardammo fuori dai finestrini e vedemmo il primo ministro Winston Churchill che chiacchierava con Clement Attlee, il capo dell'opposizione. Per Elisabetta ha inizio la sua nuova vita. Il treno avanza sbuffando e il re comincia il suo ultimo viaggio verso il luogo della sua sepoltura. Sotto gli occhi della figlia, la regina, della vedova, la regina madre e della principessa Margherita, le solenni esequie hanno inizio. La salma del re viene esposta per 3 giorni a Westminster prima di essere seppellita a Windsor. C'era un mare di folla, ma nessuno fiatava. Quando arrivò la processione, si sentiva solo il suono ovattato dei tamburi e il tonfo sordo degli stivali della Guardia Reale sul selciato. Fu un momento molto toccante. E dietro il feretro, a passo lento, i 4 duchi reali. A piangere il re defunto, tra gli altri, c'è anche il fratello maggiore esiliato, il duca di Windsor, che nel 1936, per amore di una divorziata, ha rinunciato al trono. La sua abdicazione ha modificato la linea di successione in favore di Giorgio VI e, alla sua morte, di Elisabetta. Diventata regina, Elisabetta è costretta a trasferirsi da Clarence House a Buckingham Palace. A ricordare l'umore tetro di quei primi mesi è il valletto di palazzo Cyril Dickman. La corte era in lutto e ovviamente nessuno pensava di organizzare feste, eventi sociali o cene di gala. Portavamo tutti la fascia nera al braccio. Anche gli ufficiali dell'esercito e le guardie reali durante il cambio della guardia. I documenti ufficiali erano listati di nero per ordine di Sua Maestà. Elisabetta è ora regina, ma è una sovrana non ancora incoronata e rimarrà tale per un altro anno. Il giorno dell'incoronazione è fissato per il 2 giugno 1953. Dopo la morte del re, fu subito chiaro che ci sarebbe voluto molto tempo per organizzare un'incoronazione. Innanzitutto perché il paese versava in una grave situazione finanziaria e c'erano ancora molte ferite economiche della guerra da sanare. Churchill disse: non può esserci un'incoronazione con gli ufficiali giudiziari in casa. Gli inglesi non avevano i mezzi per costruire o ricostruire le loro case. Non c'erano i materiali grezzi per riavviare le piccole attività. I trasporti ferroviari erano rallentati e il clima era sfavorevole. Ma nonostante il 1952 sia un anno tetro per l'Inghilterra, il paese guarda la giovane regina con rinnovata speranza. In quei giorni bui del 1952, il popolo inglese apprezzava la sua grazia e la sua freschezza. Il Times scrisse che il fatto che la nuova sovrana sarebbe stata una donna avrebbe inaugurato una nuova era elisabettiana. Nonostante incarni le speranze di una nazione, Elisabetta è pur sempre la madre di 2 bambini. Ma il suo nuovo lavoro le lascia molto meno tempo per Carlo, di 3 anni, e Anna, di appena 1 anno e mezzo. Cercava di ritagliarsi dei momenti da passare in loro compagnia, durante la giornata, magari prima del bagno o all'ora del tè. Ma ovviamente non era facile, da quando era diventata regina. Ma non sono solo i bambini ad essere messi da parte. ed ecco sfilare la guardia reale. Anche il marito Filippo è relegato in secondo piano. Né lui né sua moglie si aspettavano che sarebbe accaduto tanto in fretta. Filippo fu costretto a interrompere la sua carriera in marina perché non era conciliabile con lo stile di vita associato a un consorte reale. C'era un solo elemento di libertà nella sua vita e rendersi conto all'improvviso di aver perso anche quello deve essere stato un momento davvero terribile. Ma quando sua moglie diventa regina, Filippo si ritrova privo di un ruolo formale. Gli viene detto persino che il suo nome di famiglia, Mountbatten, non verrà tramandato ai suoi figli. Il principe consorte porta il cognome dello zio, Lord Louis Mountbatten, che ha contribuito al suo mantenimento. Dal primo giorno di regno, Elisabetta mette il suo dovere di sovrana sopra ogni altra cosa. Non c'è da sorprendersi, è la stessa donna che il giorno del suo 21° compleanno ha fatto un ardente voto di servizio all'impero. Dichiaro davanti a tutti voi che la mia intera vita, lunga o breve che sia, verrà messa al vostro servizio e al servizio della grande famiglia imperiale alla quale noi tutti apparteniamo. Eppure, quando Elisabetta sale al trono, l'impero vacilla. L'India, il suo storico caposaldo, ha già conquistato l'indipendenza. E nel marzo del 1952 la Costa d'Oro diviene il Ghana, la prima colonia britannica ad ottenere l'indipendenza. Anziché inaugurare una nuova era elisabettiana, gli anni 50 portarono gli inglesi a chiedersi quale sarebbe stato il loro ruolo negli equilibri del dopoguerra. L'aereo decolla per il collaudo. Sotto gli occhi del mondo, nel primo anno del regno di Elisabetta, l'Inghilterra vive una serie di eventi catastrofici. Il 6 settembre, durante un'esibizione aerea a Farborough, il velivolo collaudato da John Derry, un The Havilland 110, esplode. Nella tragedia muoiono 2 piloti e 26 spettatori. Un treno locale affollato di operai ferma la stazione di Harrow and Wellstone. L'8 ottobre si verifica il disastro ferroviario di Harrow and Wellstone, uno dei più gravi nella storia inglese che miete 112 vittime. Per Liverpool, che viaggiava a 100 km orari, ha provocato un inferno di lamiere e dolore. Nell'inverno 1952 si registra una delle peggiori ondate di smog mai viste a Londra. Alla letale miscela di fumo e nebbia vengono attribuite oltre 4.000 vittime. Ma il peggio deve ancora venire. Nel 1952 a Lynmouth, nel Devon, un'alluvione provoca la morte di 31 abitanti. Altri 283 muoiono la primavera successiva, quando una nuova alluvione colpisce la costa orientale dell'Inghilterra. Per molti versi, il 1952 fu un'annata terribile per diventare regina e salire al trono d'Inghilterra. Ma considerando ciò che dovette affrontare, se la cavò magnificamente. Ma a sole 10 settimane dall'incoronazione un nuovo lutto colpisce la regina. La regina Maria è morta. La grande signora d'Inghilterra, sopravvissuta a 6 regni. Il 24 marzo 1953 muore la regina Maria, moglie del re Giorgio V. La regina Maria è una figura molto importante in seno alla famiglia reale. La sua morte a poche settimane dall'incoronazione della nipote fu interpretata da alcuni un cattivo presagio. Il fatto curioso è che lei stessa pensava di non arrivare all'incoronazione e molto generosamente chiese che non le venissero dedicate troppe attenzioni. In qualità di madre e moglie del re d'Inghilterra ci si sarebbe aspettati un funerale di Stato, settimane di lutto nazionale e via dicendo. Ma lei preferì farne a meno. L'unica cosa che contava era l'incoronazione. Quello dell'incoronazione fu un periodo molto entusiasmante. Come moglie di un nobile, dovetti tirare fuori dal guardaroba il mantello di velluto rosso bordato di ermellino. Era rimasto lì dentro per anni e avevo il timore che fosse stato rovinato dalle tarme, ma era sopravvissuto. Nella primavera del 1953 la febbre dell'incoronazione contagia l'Inghilterra intera. Quando andavamo in giro per negozi, le vetrine erano piene di libri, giocattoli e gadget ispirati all'incoronazione. A scuola non parlavamo d'altro. A lezione era un argomento fisso. I maestri ci incoraggiavano a tenere degli album fotografici e agli angoli delle strade vendevano delle bamboline della regina con una corona in testa. È la prima incoronazione mai trasmessa in TV. Per giornalisti come Richard Dimbleby, è l'alba di una nuova era. A mio padre fu chiesto di scegliere tra le cronache radiofoniche e quelle televisive. A quell'epoca la televisione era ai suoi esordi e la radio spopolava. Tra i 10 e i 15 milioni di persone accendevano la radio ogni giorno, mentre la televisione aveva soltanto poche centinaia di migliaia di spettatori. Ma mio padre pensava che la televisione rappresentasse il futuro. E la decisione della BBC di trasmettere la cerimonia dell'incoronazione per lui era un momento storico. Migliaia di persone si sono radunate fuori da Buckingham Palace, nonostante siano solo le 7 del mattino, per guardare il corteo per le prove del 2 giugno. Il passaggio della carrozza reale, trainata da due cavalli bianchi, sarà il momento culminante del corteo verso la cattedrale di Westminster. Nel 1953, dato che all'incoronazione avrebbe assistito il mondo intero, la cerimonia venne provata più e più volte. La carrozza reale arriva alla cattedrale in cui Sua Maestà sarà incoronata. Le nostre cineprese sono pronte per lo storico evento. Tutto è predisposto per filmare questo giorno di gloria in tutto il suo splendore. Verranno usate le apparecchiature più all'avanguardia, fra cui l'obiettivo più grande del mondo, e uno zoom costato più di 1.000 sterline, per offrire immagini magnifiche ai nostri spettatori. Si diffuse un culto semidivino della giovane regina. Riletto con il senno di poi, questo culto rifletteva molti aspetti distintivi dell'epoca, tra cui il diffuso sollievo per essere sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale e per la ripresa economica del paese. Nel 1953 tutto sembrava possibile. Alla vigilia dell'incoronazione, 30.000 persone dormono all'aperto in attesa del passaggio del corteo. Tra loro Gilles Marseille, all'epoca ha 11 anni. Il giorno prima dell'incoronazione ci riunimmo per andare a Londra. Eravamo all'incirca 22. Trovammo un angolino per sederci sui gradini del Ministero dell'Aviazione. Mia madre disse: «Noi rimarremo qui, nel caso ti perdessi, sai che puoi trovarci qui». E dormimmo lì tutta la notte. Quella notte per le strade si diffonde una notizia sensazionale. Gli strilloni riempivano le strade sventolando i giornali, urlando a squarciagola. Annunciavano che l'Inghilterra aveva conquistato la cima dell'Everest. Si tratta di un'impresa storica, un giorno che l'umanità non potrà dimenticare. L'Everest è stato conquistato da uno sherpa nepalese, Tenzing, e dal neozelandese Edmund Hillary. Londra però lo considera un trionfo britannico. Sebbene sia difficile associare un nepalese all'Inghilterra, Hillary era neozelandese e a quell'epoca la Nuova Zelanda era considerata una colonia inglese, parte dell'impero britannico, quindi non si faceva molta distinzione tra un inglese e un neozelandese. Il Commonwealth a quell'epoca era talmente coeso che quasi tutti la pensavano così. Un presagio bene augurante alla vigilia dell'incoronazione. Martedì 2 giugno 1953 a Londra piove e fa freddo. La folla però sembra non accorgersi di questi disagi. Tutto a un tratto ecco sopraggiungere la parata. Gli occhi del mondo erano puntati su Londra. Quell'evento riusciva a toccare le stesse corde da secoli, aggiungendo una dimensione fiabesca. E non dimenticate che, secondo i sondaggi dell'epoca, un quarto della popolazione inglese era convinto che la regina fosse un'emanazione divina. Alle 10.30 del mattino, la carrozza dorata esce da Buckingham Palace e si dirige verso l'abbazia di Westminster. Oltre alle centinaia di migliaia di persone che gremiscono il corteo, altri 20 milioni seguono l'evento in televisione. Appena l'intero corteo fu passato, mia madre disse: «Presto, corriamo a prendere il treno!» Diede un appuntamento a mio padre alla stazione di Morden. Da lì saremmo arrivati a casa in tempo per vedere l'incoronazione in televisione. L'incoronazione rappresenta un momento decisivo per la diffusione della TV di massa. Richard Dimbleby ha visto giusto. Prima, l'arcivescovo si rivolgerà a quanti sono radunati su ogni lato dell'abbazia. Siamo qui riuniti per incoronare Elisabetta, regina del popolo inglese. Quando l'arcivescovo di Canterbury si fermava, Richard Dimbleby prendeva la parola per poi cedergliela nuovamente. A volte i ruoli non erano ben chiari se ad officiare la cerimonia fosse l'arcivescovo di Canterbury o Richard Dimbleby. In realtà non importava molto. Ciò che davvero importava era l'impatto complessivo che si sarebbe impresso indelebilmente nella memoria degli spettatori. I quattro cavalieri della giarrettiera, i duchi di Wellington e di Portland, il conte di Fortesque e il visconte di Aranley portano un baldacchino d'oro per schermare Sua Maestà affinché il sacro momento sia celato agli occhi dei più. Il momento più sacro dell'incoronazione, l'unzione, non fu filmato per via della sua grande importanza religiosa. È il momento in cui l'arcivescovo unge la fronte e il corpo della regina con l'olio santo, consacrandolo al suo ruolo. Questo è il punto di non ritorno, perché l'unzione è compiuta dall'arcivescovo, ma per conto di Dio. Una volta unta, dunque, la sovrana non può più sottrarsi alla sua sacra funzione. O Dio onnipotente, con questa corona noi ti preghiamo di santificare la tua fedele serva Elisabetta, sul cui capo viene oggi posta in segno di regale maestà. Dio salvi la regina. L'incoronazione fu un evento memorabile. Non credo che la mia generazione possa comprendere appieno l'impatto che ebbe dopo i terribili anni della guerra e l'austerità del dopoguerra, dopo gli anni del razionamento. Era il momento in cui l'Inghilterra cercava di risollevarsi e tornare alla vita. Di sicuro cambiò l'immagine che gli inglesi avevano di loro stessi e l'immagine che il mondo intero aveva dell'Inghilterra. Fu un terremoto. Sei mesi prima, nel messaggio augurale ai sudditi sparsi nell'impero, la regina ha anticipato il momento dell'incoronazione. Durante la mia incoronazione chiederò a tutti voi, qualunque sia il vostro credo, di pregare affinché il Signore mi doni la saggezza e la forza per portare a termine le solenni promesse di cui mi farò carico. E affinché io possa servire fedelmente Lui e voi ogni giorno della mia vita. Quel voto di servizio pronunciato da Elisabetta alcuni mesi prima dell'incoronazione è una promessa che la regina ha mantenuto per tutto il suo lungo regno, nonostante i momenti difficili che ha dovuto attraversare e le scelte, a volte anche impopolari, che ancora il suo ruolo le propone, ma a cui ha saputo rispondere sempre con fermezza, a volte anche con ironia. Rimarrà sempre presente nel ricordo di un'intera generazione il suo finto arrivo in paracadute tra le braccia di James Bond in occasione dell'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012. E adesso, a 90 anni, il bilancio del suo regno non può che essere positivo.